headlights are on. Marzo del 2024, alle ore 21 inizia prove tecniche di trasmissione come ogni mercoledì sera sino alle 22:30, allorché ci sarà 25 o'clock. Per sentirci via web www.ondarossa.info e sul sito stesso si possono trovare le varie modalità di adesione per quanto riguarda la sottoscrizione per questa radio. E a breve ricomincerà anche il crowdfunding, ma ne parleremo a tempo debito. Your 0649 1750 è invece lo storico numero telefonico. Qualche rapido saluto, Maia in Umbria, Antonio Zoviet di omicidio a Firenze. Abbiamo Ernesti Panico Brusati di Panico da Palcoscenico a Varese, Sara Boia a Berlino, Tiziano Farinacci di Pigreco, Doriana Panico in quel di Taranto. Abbiamo anche Massimo Pasqualetti, Marco Mascia di Progetto Sonoro, Venusia Zozietta Stramogno di Cupio Dissolvi Alfa Privativa. Abbiamo Anna qui a Roma, Cristiano Bocci di Chemical Resistance. Abbiamo Simone Scalise di Audio Chaos, Jean-Claude Berthaud in quella della Val d'Aosta. Andiamo a salutare anche Asia, Marcello Buffetti di Monum, progetto elettronico. Buonasera anche a Lupsi, Lucia Cagliazza, presto ascolteremo anche il suo ultimo album. Un saluto a Noise Cluster, Francesco Cornello a Bergamo. Il medico della peste. Alberto Cripper di MDMA, Tania sempre qui a Roma, Nicola Locci Stigmate e Hexagonal. E ancora Wunus Island, l'industrial storico piemontese, Margherita Montoneri. Cominciamo con il dire che a breve comincerò a mandare anche un passaggio di questa compilation dedicata al sottoscritto, ma che cosa più importante, va alla sottoscrizione per Radio Onda Rossa, composta da vari artisti che hanno e che diciamo deliziano questa trasmissione con la loro arte. Quindi una trentina di artisti hanno dedicato al sottoscritto questa compilation uscita il 14 marzo sul profilo Bandcamp, ma ne parleremo più in là. Questa sera, come la scorsa settimana, iniziamo con Ignoto Militi, questo progetto proveniente da Udine. Un progetto che si muove agevolmente tra neofolk ma anche qualche passaggio martial ed industrial, e che vede la tematica della guerra, soprattutto della prima guerra mondiale, con la guerra di trincea. Ecco, tutto quello che ne segue in termini, che ne ha seguito in termini di sofferenza, di sangue, di sudore, sono tematiche per l'appunto affrontate in gran parte delle tracce di Ignoto Miniti. Questa sera però cominciamo con una cover. Una cover di Tet N' June, la strafamosa Fall Apart, e poi ci andremo ad ascoltare Il nemico sotto di noi, Monte Cimone. Thank you. We'll be right back. Abbiamo iniziato dunque con Ignoto Militi, una versione abbastanza canonica di Fall Apart the Dead and June, molto somigliante all'originale, mentre poi siamo passati al pezzo, uno dei pezzi proprio originali di Ignoto Militi, Il nemico sotto di noi, Monti Cimone, peraltro uscita in compilation Idle, che è uscito, se non erro, con la Nespresso Sounds Group di Raffaele Pezzella. Consiglio caldamente di andare sul profilo Bandcamp, giacché c'è tutta o la gran parte della produzione di Ignoto Militi, che andremo a conoscere ben presto nelle puntate che verranno proprio di prove tecniche di trasmissione. Questa sera avremo dunque tre compilation in previsione. E cominciamo con la prima, inerente all'attività cinematografica di David Cronenberg. Si chiama The Body of Horror, Music Inspired by the Cinema of David Cronenberg. Anche questa sotto l'egida dello stesso Raffaele Pezzella, quindi una serie di artisti chiamati all'appello che hanno dedicato qualche traccia all'arte sopraffina di questo famoso regista. Cominciamo con un artista, credo iraniano, dal nome Dodenskald, dal nome non sembra, ma sembra per l'appunto iraniano, con Morphogenetical Grafts, e poi il sardo Uncodified con Konsek. Trattasi dunque di The Body of Horror, la musica ispirata al cinema di David Cronenberg, una compilation uscita nel 2022 che vede la partecipazione di 10 artisti che hanno omaggiato anche attraverso i titoli che hanno riguardato e ricordato soprattutto dei vecchi film di Cronenberg, hanno dato lustro all'arte di, appunto, di Cronenberg. Di questi 10 episodi ce ne siamo ascoltati due, uno ad appannaggio di Dodenskald, come già detto, artista iraniano, un bratile ambient, e invece il profilo, il gesto sonoro più sperimentale e arcigno appartenente al sardo Uncodified di Corrado Altieri. La traccia in questione si chiamava Consec. Saluto Francesco Monaci, Smilso, Daro Righi e Sera Capo Fontana di Xaide. Stefano Ormani di Artificial Heaven, una realtà gothic rock romana in decisa ascesa. Intanto si è aggiunto Filippo Panichi, anche lui è uno di quelli che ha contribuito al tributo alla cosiddetta radio leggenda, che sarei io, Barbara Caridi, ed Enrico Marcheggiani di Blocco Nero. Di compilation in compilation, ma torniamo indietro di ben 30 anni, arriviamo alla Slaughter Production, la vecchia etichetta di Atrax Morg Marco Corbelli. Si chiamava From Sickness to Death e quel compendio si concludeva con Teatro Satanico, con questa lunga traccia dal nome Un Fraterno Messaggio. da questo mondo. Ti ingannano, centinaia di volte ti ingannano. Ti ingannano sempre, ti hanno sempre ingannato. Una delle tracce più caratterizzata da pathos drammatico e distruttivo, e in questo senso una delle migliori di teatro satanico, come giustamente ci dice Antonio Zovet, insieme a lirica antisociale e programmazione neurolinguistica. Ma in generale il panorama musicale di teatro satanico è sempre stato di enorme pregio. E questo fraterno messaggio, d'altronde, rappresenta una delle prime tracce di questo progetto veneto. È vero anche che ci ha ricordato Menarca, che è stato spesso trasmesso tanti tanti anni fa dal sottoscritto con la sua cosiddetta poesia post-industriale italiana, lo ricordiamo quando lasciava le poesie, quando esistevano le cabine telefoniche, lasciava queste poesie in quel di Modena. Un grosso performer, Antonio Facci Tosatti. E dunque veniamo a questa compilation che mi riguarda, cercherò di essere meno autocelebrativo possibile. Cominciamo con il dire che il tutto è partito da Cristiano Bocci di Chemical Resistance, che a quanto sembra ha creato verso ottobre una chat dove è riuscito a mettere insieme 30 giù di lì artisti, li ha invitati a ideare una traccia. E con queste tracce, ben 41, si è costruita questa compilation che, oltre a dedicarla al sottoscritto, il ricavato va per Radio Onda Rossa, quindi un'operazione di un'enorme dignità culturale e politica. E Cristiano Bocci scrive in profilo Bandcamp: caro ascoltatore, benvenuto in questo viaggio musicale unico, una celebrazione dell'influenza straordinaria di DJ Elettrodo. Certo che lo dica io è un po' strano, ma è scritto così. E nello specifico della sua trasmissione radiofonica a prove tecniche di trasmissione. Con questa compilation ci immergiamo nell'universo sonoro di artisti che hanno avuto l'onore di passare attraverso le sue abili mani e orecchie attente. E quindi, secondo Bocci, lo ringrazio ancora una volta, ma lo so che lo pensano anche gli altri, e ringrazio tutti gli altri ovviamente all'unisono, sarei un'icona della scena musicale romana, non è solo un DJ straordinario, e qui arrossisco, ma un cultore appassionato di nuove sonorità, storico conduttore delle trasmissioni, prove tecniche di trasmissione e Disorder su Radio Onda Rossa dal 1992. E come sanno, si va dall'avanguardia al panorama elettronico, goth, industrial noise, eccetera. E quindi anche un faro per gli ascoltatori a casa e per gli artisti underground internazionali e con particolare riguardo italiani. La faccio breve, aggiungo però, ogni traccia di questa compilation racconta di una storia e una testimonianza delle diversità e della ricchezza della scena musicale che il sottoscritto contribuisce a diffondere. E quindi gli artisti hanno unito le loro forze ed è una dimostrazione di come tutto ciò sia stato anche uno stimolo alla collaborazione e allo sviluppo di amicizie. Quindi questa compilation è un tributo al suo lavoro, ossia il mio, straordinario, e alla mia dedizione, eccetera, eccetera. Si parla poi in maniera specifica anche di Radio Onda Rossa, della sua storia, della sua nascita del 1977, del nostro non mandare pubblicità, della nostra attività politica incessante, del crowdfunding, delle nostre serate a sottoscrizione, e anche si accenna al DAB che è nato da poco nella provincia di Terni. Ringrazio Cristiano Bocci e Marcio Gronge che ha anche fatto la copertina di questo lavoro. E allora lo cominciamo a conoscere. La prima traccia si chiama proprio Elettrodo ed è ad appannaggio di Marcio Gronge. Ci sarà poi Lupsi, Lucia Cagliazza con The Power of Sound e poi Fade to Grace, ossia Valerio Michetti e Trinity Berziani con Marconista Elettronico, un bellissimo titolo. We'll be right back. Dopo la genialità di Marcio Gronge con Elettrodo, questa è Loopsy, The Power of Sound, una tipica composizione eterea ma inquieta di quest'artista udinese. Ed eccola, marconista elettronico, Fate to Greece, Valerio Michetti e Alessandra Trinity Berziani della Grazia Obliqua. Artist for DJ Electrodo, tribute to a radio legend. È strano leggere queste cose che mi riguardano. Non smetterò mai di ringraziare tutti quelli che si sono adoperati in questi mesi per costruire questo gioiello veramente di alta arte, perché io sarò, e fa anche rima, sarò un po' di parte, ma le 41 tracce sono tutte di ottimo livello, devo dire, e quindi il contributo è stato estasiante per le mie orecchie e spero anche per quelle di molti di voi. Quindi invito poi per chi vuole a andare su Bandcamp e ad acquistare questa compilation, il cui ricavato costa 5 euro per la cronaca, il cui ricavato andrà a Radio Onda Rossa. Buonasera a Cecilia Miradoli di Pindar, Moschita de Miramar ad Harlem. Noi andiamo avanti, cerchiamo di nascondere l'emozione che, devo dire, mi ha un po' attanagliato la voce. Si va avanti e andiamo ad altissimi livelli con Xaide, Sara Capo Fontana e Dario Enrichi in questa loro nuova avventura sonica che ha dato le stampe Mille Anime, un ottimo lavoro, uno dei migliori di questo 2024. Si chiama appunto Mille Anime, ci ascoltiamo l'ottava e la nona traccia, perdendoci in questa sorta di electro noise. E allora, in questa tomba per vivi e sottomare.